Elena Zecca, vi do un caloroso benvenuto. La nostra direttrice oggi è assente, purtroppo è malata, faccio le veci. Ringrazio Alessia, che ho conosciuto telefonicamente, dicevo alla sua mamma, mi sono innamorata di questa energia, proprio mandata via a cavo, per cui non volevo assolutamente mancare. Ringrazio il dottor Florio che farà da moderatore e quindi introdurrà questa nostra serata, nonché il CAI che ci ha dato questa splendida idea per invitare Alessia per questa serata. Mi permetto anche di invitarvi al prossimo evento della biblioteca, che è per lunedì. Ci sarà Ada Zaperi Zucker con Una vita di donna in Sicilia. È un'autrice che ci onora annualmente della sua presenza con dei romanzi molto interessanti. Se avete piacere di venirla a sentire, lunedì, stessa ora, stesso posto. E ora la parola al dottor Florio. Sì, grazie Paola. Ringrazio la padrona di casa, certo, e certo, passo la parola alla finta padrona. Patrizio Veronese, per Caio Bolzano. Buonasera a voi tutti. Questa serata nasce un po' quando è nata, quando Alessia mi aveva contattato per dirmi: guarda che il libro è già uscito, perché con Alessia ci siamo sentiti già da più di un anno. Perché? Perché Alessia verrà a farci una serata intera nell'ambito delle serate culturali a settembre del 2020. E quando mi ha detto che stava per scrivere il libro, dico: ah, che bello, così a settembre 2020 ce l'avrai da presentare. Dopo qualche mese, allora era quasi finito. Dico: va bene. Ecco, poi ci siamo mossi e nel frattempo era nata l'idea della mostra del Gashebrun 4, che è qui sotto nella sala meno 1 qui al Trevi. Quando abbiamo messo in piedi il discorso della mostra, abbiamo pensato con la Biblioteca Claudio Augusta, col Centro Audiovisivi, col Centro Multilingue, con Dante Alighieri, Soror Optimist, eccetera, e altri che adesso non sto qui a nominare, mi dispiace, non è che lo faccio volontariamente, ma non mi ricordo proprio tutte quelle che la gente di soggiorno che ci porta da Ciamaraini il 14 di dicembre, quest'anno devo nominarla, è venuta l'idea di proporre alcuni libri con gli autori che vengano direttamente qui. Il primo libro a cui ho pensato è stato questo libro qui di Alessia Refolo, Se vuoi, puoi, questo suo motto molto bello. E dicevo prima, sono riuscito a leggerlo andando a Milano e tornando in giornata, perché ho iniziato e non riuscivo a finirlo, quindi ne ho approfittato che tanto il treno bisognava restare seduti e aspettare. Un libro che consiglio vivamente di leggere, perché merita, trasmette tanta forza. E quello che Alessia trasmette già quando ti parla, quando ti racconta, quando ti scrive, è proprio la sua energia positiva, il che è di una ricchezza incredibile e di questa la dobbiamo solo ringraziare. Adesso la Biblioteca Claudio Augusta ha accettato, ci ha organizzato questo evento e io, come Caio Bolzano, non era del presidente, del direttivo, ne siamo molto riconoscenti, perché ci dà l'occasione di ascoltare in anteprima Alessia, che oggi ci racconta qualcosa di sé. Poi l'aspettiamo però il 25 settembre del 2020 a raccontarci tutto il resto in maniera molto più approfondita, e lì speriamo veramente di coinvolgere ancora più persone, perché merita veramente di ascoltare. Io chiudo, perché è lei che dobbiamo ascoltare, grazie a Paolo che fa da moderatore, che fa, quindi interagisce adesso con Alessia. Buona serata, buon ascolto, e i libri sono poi in vendita fuori, prendetelo, perché ne merita. Grazie. A questo punto pregherei il nostro tecnico di fiducia di... Sì. Mi devo spostare? No. Servono tutti, così partiamo con un filmato introduttivo. Volete spegnere le luci? Forse si vede lì. In sport, e apriamo con lei, Alessia Refolo, questa scalatrice che ogni giorno affronta la vita e la disabilità con il sorriso e con grande coraggio. Continua ad allenarsi e insegue sfide sempre più grandi. Perché alla sua femminilità ci tiene anche quando arrampica. Scalare la roccia è roba da duri, servono muscoli e forza, ma basta guardarla mentre va su per capire che è anche una questione di grazia ed eleganza. Alessia Refolo, 29 anni l'11 luglio, piemontese di Ivrea. Va su che è una meraviglia, lo fa con grazia, forza ed eleganza, ma senza l'aiuto della vista. A 5 anni è sopravvissuta ad una gravissima forma tumorale, un neuroblastoma. I farmaci le hanno irrimediabilmente danneggiato la vista. Mi hanno detto che sarei rimasta sempre appunto cieca parziale e questo mi ha sempre rassicurata, io ero tranquilla. E a un certo punto mi sono ritrovata a dover scrivere un biglietto di auguri per un mio ex fidanzato e ai miei genitori io ho detto: guarda, la penna non scrive. E mia mamma mi ha detto: no, guarda che invece sta scrivendo. E lì mi è caduto il mondo addosso, ho la consapevolezza che da quel giorno non avrei più visto e insomma mi ha proprio scioccata, infatti ho pianto proprio per tante ore. Lo sport l'ho sempre amato, ho praticato diverse discipline, poi nel 2013 è stata folgorata sulla via dell'arrampicata. E la prima volta che ho iniziato a scalare mi sono sentita principalmente libera perché mi sono ritrovata a contatto con la natura a 360 gradi. Nel 2013 la prima scalata, nel 2014 ha conquistato il titolo di campionessa mondiale paralimpica di arrampicata sportiva. Alessia è una forza della natura, in 6 mesi ha scritto un libro autobiografico, il titolo evoca il segreto della sua ricetta vincente per affrontare la vita. Il titolo Se vuoi puoi, proprio perché di base ci tengo sempre a trasmettere al mondo queste mie parole di forza, questo mio mantra che riesce a darmi grinta, gioia e a farmi raggiungere soprattutto tutti i miei obiettivi. Posso sempre contare sugli altri, sono circondata dalla mia famiglia, da amici veramente preziosi, però il fatto di riuscire comunque da sola per me è fondamentale. Forte, vincente, bella e autonoma, all'indipendenza proprio, non sa rinunciare, lavora in banca, vive da sola. Ho imparato a cucinare, ho imparato a fare le pulizie, le lavatrici, a vestirmi da sola correttamente ogni mattina, quindi ho imparato a fare tutto in casa. Alla sua immagine Alessia ci tiene quando arrampica, ci tiene ancora di più quando sta con i piedi per terra. Io ci tengo pur non vedendo, perché comunque la sensazione di come sono, come mi sento, va al di là del fatto che io veda o non veda magari lo smalto blu che ho quel giorno. E Alessia Refolo, Barbie Climber, la scalatrice non vedente più forte che c'è. Bene, abbiamo visto un bel filmato, devo dire che ha fatto molto bene, lo dico da giù. Su Italia 1 è andato in onda 2 mesi fa, è stato proprio Sport Mediaset che mi ha contattato per girare il servizio della mia palesia preferita. Grazie a lei, adesso non è abituata ad avere un moderatore, lei è sempre abituata a fare ad andare nelle scuole a parlare, a raccontare la sua storia e il suo progetto. Però già da questo filmato, ripeto, molto ben fatto, potete capire che tipo sia Alessia. Ho avuto il piacere di conoscerla di persona oggi, ma di sentirla e di leggere il suo libro nei giorni scorsi, prima di incontrarci oggi, vi assicuro che è molto più difficile trovare lei che un qualsiasi politico da beccare per un giornale, perché ogni volta che la chiamava era sempre ad allenamento, ad arrampicare, veramente una ragazza di una energia e di una forza fuori dal comune. Ma tra l'altro, perché noi diciamo robototari ci possiamo chiedere che quello che fa lei è eccezionale, sì, ma non è solo il fatto che lo faccia, che faccia quelle cose lì non vedendo, è il fatto che faccia tutte quelle cose lì. Perché tutte quelle cose lì, lasciamo stare io che ho una certa età, ma neanche uno giovane li farebbe oggi. E poi le scopriremo tutte queste cose che Alessia riesce a fare, ma ripeto, al di là della disabilità, della mancanza della vista, proprio con quella forza d'animo e di carattere che la contraddistingue. Allora, introduco Alessia, ricordando oggi, sarà un caso, il 10 ottobre, oggi ci sono due eventi. Oggi è la giornata mondiale della vista, ho scoperto, quindi l'Unione... Non lo sapevo neanch'io. L'ho scoperto anch'io perché avevo un comunicato stampa dell'Unione Ceca Italiana e oggi c'erano dei banchetti, delle campagne di sensibilizzazione dislocati in tutta Italia, presumo, oltre che qui, proprio per sensibilizzare, una campagna di informazione e sensibilizzazione sulle possibili problematiche legate alla vista. Ecco, quindi cade giusto oggi. Oggi ha aperto a Trento il Festival dello Sport, come chiaramente sapete che è un grosso evento della Gazzetta dello Sport. Il tema di quest'anno è il fenomeno, i fenomeni. Ecco, secondo me Alessia aveva tutti i titoli per essere oggi a Trento, ma va bene averla qui con noi, perché è veramente un fenomeno sotto tutti i punti di vista, sportivi ma anche e soprattutto umani. Seguiamo la scaletta classica, ecco, didascalica da giornalista che si fa. Quindi presentiamo Alessia, oltre a quello che avete visto, le faccio raccontare un po' quella che è stata l'evoluzione della tua vita, insomma della tua malattia. Sì, allora io a 18 mesi ho avuto un tumore, il neuroblastoma, che è un tumore che colpisce i bambini in età infantile e mi ha colpito nella zona addominale. Però poi i farmaci per curarmi, dei farmaci molto forti, mi hanno danneggiato la vista, quindi sia la retina sia il nervo ottico. Quindi dall'età di 18 mesi sono rimasta cieca parziale e cercando di fare comunque tutto, quasi tutto. Quindi i miei genitori mi hanno sempre fatto provare tantissime cose, quindi dallo sport alle piccole cose quotidiane. E quindi ho vissuto così, vedendo poco, come mi dicevano, vedi poco. Per me questo poco era relativo. Da bambina pensavo addirittura di vedere di più forse di quello che in realtà vedevo. E da 5 anni invece sono cieca assoluta, ma mi hanno detto semplicemente i medici che può essere che in zone danneggiate il sangue circoli meno, e quindi insomma forse questo è accaduto. E dalle sagome ai colori che in situazioni luminose io distinguevo, da 5 anni invece, come ho scritto nel libro, distingo il giorno dalla notte, quindi per me qua è un scuro omogeneo, quindi come se fosse nero, diciamo, mentre fuori al sole è un chiaro, un grigetto, ecco, per capirci. Però ecco, l'aver visto prima un po' mi permetteva di orientarmi, quindi magari quando camminavo riuscivo almeno a capire se su un marciapiede avevo il muro da un lato e dall'altra parte vedevo la striscia bianca della strada, per esempio, quindi contrasti comunque forti che però mi permettevano di muovermi. Anche appunto il fatto di aver visto i colori mi aiuta tuttora nel vestirmi, per esempio, quindi ora mi immagino i colori che in negozio mi vengono detti dei capi di abbigliamento, però l'averli visti mi aiuta comunque a crearmi i miei abbinamenti ogni mattina, e insomma l'aver visto mi posso dire che mi aiuta tuttora, ecco. Quando è stato il momento, Alessia, quando è arrivata la cecità assoluta? A che età? Allora, è stato penso un passaggio graduale dove io mi sono resa conto, come avete visto nel video, solo quando proprio mi sono messa con carta e penna a scrivere questo biglietto di auguri per il mio fidanzato, perché di fatto effettivamente non vedevo già da un po', solo che usavo sempre un po' delle giustificazioni dicendo magari non c'è abbastanza luce, proprio perché per me questa luce è sempre stata fondamentale. Io quando ero piccolina mi sognavo questa casa tutta illuminata, anche proprio tipo le luci nei bordi per terra, per così muovermi meglio anche solo in corridoio, quindi per me la luce era proprio importante. Mi ricordo che andavamo nei ristoranti la sera o in vacanza, il primo pensiero era sempre trovare un tavolo illuminato, perché comunque per mangiare mi aiutava magari poco, perché mi permetteva solo vedere magari la sagoma della bistecca nel piatto, solo di vedere appunto certe cose, però la luce era sempre stata preziosa. E a un certo punto mi dicevo, ma sì, adesso qui non vedo, ma si vede che non c'è abbastanza luce, oppure anche lì per strada a un certo punto non riuscivo più a camminare da sola senza bastone bianco, ho iniziato poi a usarlo, e mi dicevo, ma magari oggi è un po' nuvolo, e mi davo un po' delle giustificazioni così. Finché poi a un certo punto ho dovuto scrivere questo biglietto, io alle superiori scrivevo, anche alle elementari, con degli occhiali molto spessi, scrivevo in stampatello un po' grande, e quindi l'avevo sempre fatto, era una cosa che comunque sapevo fare. Poi ho iniziato a lavorare, 20, 21, 22 anni, e ho sempre più utilizzato strumenti con sintesi vocali, quindi di fatto non ho più scritto, finché a un certo punto, più o meno 5 anni fa, ora appunto ne ho 29, mi sono messa a scrivere questo biglietto di auguri e è successo quello che avete sentito, quindi per me la penna non scriveva, in realtà scriveva. Quindi non so quando è stato il momento esatto in cui c'è stato proprio questo peggioramento magari non è avvenuto comunque in un giorno, ma è avvenuto nell'arco di qualche anno, però lì mi sono proprio resa conto, sì, che non vedevo più, è stata la prova bianco su nero, quindi quello che mi ha sconcertato di più è proprio l'aver capito che comunque da lì in avanti non avrei più visto, no? Poi sì, appunto, ho pianto tanto in quella giornata lì e poi io l'ho ragionata, perché io ho sempre questo pensiero positivo, l'ho ragionata così dicendomi, vabbè, ma di fatto non cambia niente, mi sono detta, è solo questa interfaccia degli occhi verso l'esterno, perché di fatto le sensazioni rimangono quelle, la consapevolezza che il prato è verde, c'è l'azzurro, quella è, e fa niente, non la vedi più, ma quello è. Quindi diciamo interiormente ho capito che non sarebbe cambiato niente, anzi avevo già imparato a far tutto senza la vista, perché di fatto già vivevo da sola, già cucinavo, già mi muovevo col bastone bianco, cosa che è stata difficile comunque da affrontare, quindi di fatto già vivevo senza gli occhi. Quindi in quel periodo risale il tuo avvicinamento all'arrampicata, mi sembra che i periodi, sì, la depista coincida. E sì, poi entriamo all'argomento, questo libro appunto, come diceva Maurizio Del Cai, ve lo consiglio di leggerlo, e si apre proprio un libro che, venga a precisare, abbiamo discusso con Alessia come definirlo esattamente, scegliete fra biografia romanzata o romanzo autobiografico, perché è lei che racconta la propria vita, però chiaramente ammantandola di qualche situazione un po' modificata a fini di scorrevolezza della lettura, ecco, questo è il... Per sognare anche un po'. E per sognare anche un po', che non fa mai male. E quindi il libro si apre con questo grande evento, questo grande importante appuntamento della tua vita, che sono i mondiali di arrampicata sportiva in Spagna. Sì. Tu avevi iniziato, siamo nel 2014, sì, mentre tu avevi iniziato l'anno prima, sì, ad arrampicare. Ecco, sì. Come nasce questa passione, questa voglia di scalare le montagne? Allora, c'è da dire che appunto sulle piste da sci l'inverno precedente ho conosciuto Silvia Parente, che è appunto campionessa paralimpica di sci sulla neve, e a lei faceva anche tante gare di arrampicata, e proprio sulle piste da sci mi ha proposto di provare ad arrampicare con lei. E così nel maggio 2013 a Sondrio c'è sempre il meeting nazionale degli arrampicatori e ho provato con lei nella natura a fare la mia prima scalata, quindi abbiamo dormito in rifugio, ho provato questa scalata con anche altri disabili, altre ragazze non vedenti, mondo veramente nuovo per me, perché io avevo sempre avuto a che fare con normodotati fino a quel giorno, quindi ho anche scoperto realtà diverse ma affascinanti secondo me. E da lì ho provato a scalare, mi è piaciuto veramente tanto, perché tutto dipendeva da me, quello che mi sono sentita principalmente, che l'arrivare in cima dipendeva solo da me, perché è vero che gli altri da terra mi davano degli indizi, ma man mano che mi alzavo sentivo sempre meno, e quindi dovevo farcela, anche per non fare brutta figura con tutti quelli che mi guardavano. E da lì mi sono appassionata, e ascoltando anche i consigli delle altre ragazze di entrare a fare le gare con loro, quindi mi parlavano di viaggi a Firenze, in Francia, poi c'era questo campionato mondiale l'anno dopo appunto in Spagna, e allora ho detto anche io voglio fare le gare, anche io voglio fare questo campionato. E quindi mi hanno messo in contatto quell'estate lì con un'allenatrice, Lux, che allena a Milano, che aveva già avuto a che fare con disabili, e lei una volta a settimana, tuttora, viene da me nella mia città e allena nella mia palestra. Quindi mi ha affiancato, abbiamo iniziato un percorso insieme, e un'allenatrice tostissima, infatti la descrivo anche molto nel mio libro, lei è veramente tirannica, però effettivamente di quello avevo bisogno, penso, per vincere, perché io la prima frase che gli ho detto è iniziamo a scalare, sapendo che io le gare le voglio vincere, le voglio partecipare, perché voglio fare questo campionato mondiale. Quindi abbiamo iniziato gli allenamenti, che non mi aspettavo fossero così duri, e pensavo che all'inizio fosse un po' più semplice, e invece faceva male in generale, nel senso ai piedi, che le scarpette erano tanto piccole. Chi scala lo sa, le scarpette devono essere veramente anche due numeri più piccoli di quello che si usa di solito, quindi mi facevano male i piedi e i primi allenamenti non riuscivo a pensare ad altro, e le mani facevano male, sanguinavano e si formavano le vesciche, sanguinavano di nuovo, perché arrampicando 3 o 4 volte a settimana non riuscivano neanche a guarire le ferite, e quindi i primi mesi sono stati veramente duri. Però già dopo le prime 2 settimane mi sono chiesta effettivamente, Alessia, vuoi davvero? Perché cioè, lo hai detto, ma non sei obbligata, no? Eppure mi sono detta sì, non importa la fatica, non importa anche questo cambiamento del fisico, anche perché appunto mi trovavo questi lividi sulle gambe, non riuscivo più neanche a mettere i vestiti. Lo smalto non l'ho più messo perché queste unghie andavano così corte, se no si rompevano, quindi insomma una serie di circostanze, ma ero determinata e ho iniziato a fare nel 2014 gare in Italia, tante, perché bisogna farne una serie di Coppa Italia e campionato italiano per entrare in nazionale. E da lì poi si viene poi convocati per fare le gare all'estero, quindi Coppe del Mondo fino a questo campionato mondiale in Spagna. Ed è proprio da lì che inizio a raccontare nel mio libro, mentre faccio la valigia, perché c'è questa partenza imminente. E questo campionato che per me è stato importante è stato anche un po' forse la svolta nella mia vita. Infatti il libro inizia nel 2014. Alcuni mi chiedono, ma nel libro hai 24 anni? Ma sì, ne ho 24 perché sono del 90, quindi ne ho 24 a tutti gli effetti. Giustamente. Io ho scelto quell'annata per questa gara importante. Ho scelto quell'annata perché sempre in quell'annata più o meno ho iniziato a lavorare in banca e sempre in quell'annata sono andata a vivere da sola, quindi è stata un'annata per me proprio l'annata di svolta, svolta possiamo chiamarlo. Sì. Allora, non anticipiamo, scusate, non anticipiamo troppi contenuti di quel campionato, perché mi piacerebbe che come in un romanzo non svelassimo troppo dei contenuti, quindi mi auguro che poi lo leggiate voi. Invece, perché sembra, vabbè, fa arrampicata, che già di per sé non è una cosa semplicissima, per il più non vedente, magari poi spiegheremo tecnicamente come funziona con la tua guida da terra, sì, no, come comunicare eccetera, però Alessia non si limita a questo. Adesso io ho letto il libro e faccio l'elenco delle cose che lei, a meno che non abbia mentito, visto che è un romanzo, ma immagino che le abbia fatte tutte, vi dico cosa è capace di fare questa ragazzina. Allora, sci nautico, che qui anche hai un titolo, se non sbaglio. Sì, di sci nautico sono campionessa europea. Ecco, sì. Come nasce? Allora, lo sci nautico, la passione è recente. Io ho provato un paio d'anni fa a sciare con la mia famiglia. Volevo imparare perché le mie amiche vanno a sciare ogni tanto sull'acqua. E da lì volevo unirmi a loro, però non volevo andare in un lago qualunque con un insegnante qualunque, anche un lago vicino a casa, però volevo imparare veramente con una persona che sapesse insegnare a una persona non vedente, soprattutto le prime lezioni. Poi dopo un po' ci si adatta, sia io sia gli allenatori, però la prima impronta la volevo effettivamente con una persona che sapesse indirizzarmi bene. Quindi sono stata consigliata appunto di andare al centro federale di Recetto, che è vicino a Novara, dove ci sono dei laghi artificiali, e con la mia famiglia ho provato per la prima volta a sciare e me la sono cavata particolarmente bene. Sarà che di sport ne ho sempre fatto tanto, sin da bambina, e anche a livello di equilibrio, di percezioni proprio come movimento, come equilibrio proprio nello spazio. Insomma, il tutto magari mi ha aiutato ad andare così bene nella prima lezione, e l'allenatore mi ha proposto proprio alla prima lezione, il giorno stesso, di fare le gare per loro. Io avevo fatto gare solo nell'arrampicata e ci ho pensato qualche ora, perché sono sempre rapida nelle decisioni, e ho accettato quindi di allenarmi lì 3 volte a settimana, come funziona di solito per le gare, di allenarmi anche con le mie amiche in questo laghetto vicino a casa, perché anche quello era proprio ciò che volevo fare. E da lì ho iniziato questo percorso estivo, perché è principalmente appunto uno sport stagionale, quindi al contrario dell'arrampicata che dura tutto l'anno, lo sci nautico si concentra in estate, e ho imparato sempre di più sino a vincere sia il campionato italiano sia il campionato europeo in Francia l'anno scorso. Quindi anche lì ho avuto tante soddisfazioni, tanto impegno, perché poi all'inizio soprattutto ero più dentro l'acqua che fuori, però è stato bello, ecco. E infatti questo lo racconti, gli inizi un po'. Sì, le fatiche iniziali anche lì. Ma d'altronde, ma allora, sci nautico, quindi anche questo è uno sport complicato, però se vogliamo è una questione di tecnica più che di vista. No? Sì. E allora dice, vabbè, ci si può arrivare in qualche maniera, però una cosa che obiettivamente a un normo dotato viene difficile da immaginare, come fai il tiro a bersaglio? Cioè, come funziona il tiro a bersaglio per un non vedente? Allora, c'è da dire che per provare questo sport mi ha portato appunto un mio ex fidanzato, tra l'altro quello a cui ho scritto quel famoso biglietto fagico. E lui appunto è sempre stato appassionato di armi, di sport autodipesa, e quindi come sorpresa di San Valentino qualche anno fa mi ha portato a provare il tiro al bersaglio, quindi una cosa tutt'altro che romantica, che mi ha scioccato veramente, però insomma lui ha preso contatti, allora niente, ho accettato e abbiamo provato. I non vedenti utilizzano la carabina con però a compressione, quindi ci sono questi pallini, non è proprio un'arma vera e propria, e il mirino della carabina è collegato a uno strumento che a sua volta è collegato al bersaglio, quindi proprio al tiro a segno, e suona tramite delle cuffie che si indossano, questo strumento suona man mano ci si avvicina al centro. Quindi questo mirino della carabina viene mosso con molta delicatezza dall'atleta, e quando si percepisce questo suono alto, acuto, si schiaccia con tanta delicatezza il grilletto, e in modo da colpire proprio il centro. E è stato stancante mentalmente più che altro quella giornata lì, perché intanto mi hanno fatto indossare questa giacca in pelle molto pesante, ed è importante indossarla anche proprio come protezione, e poi ho imbracciato per la prima volta questa carabina, che per carità era stata anche ad aria compressa, ma era pesante da morire, e infatti mi hanno fatto appoggiare come tutti a un tavolino, anche per essere proprio più precisi, quindi il gomito lo si appoggia sul tavolino e si impugna l'arma. E solo tanta concentrazione, perché ti concentri su questo suono che senti dalle cuffiette nelle orecchie, e quindi ecco, mi ha un po' stancato. Lì anche l'allenatore subito mi ha proposto di fare le gare, però lì mi sono sentita subito di dire di no. Mi sono sentita subito di dire di no, perché non mi ha fatto impazzire, l'ho trovato anche troppo di concentrazione, troppo statico proprio come sport, e poi ero anche scomoda sinceramente con questa carabina che sta tutta da un lato, quindi avevo male al collo, alla fine ho detto no, le gare nel tiro a segno no. Almeno quelle no. No, scappate. Un'altra cosa, appunto, anche lì difficile di per sé, ma ancora più difficile per un non vedente, è l'equitazione. Nel libro trovate alcune cavalcate descritte che ce le fanno vedere con gli occhi, scusate il gioco di parole in questa situazione, però è veramente così, sembra di vedere Alessia che cavalca, per come descrive le sue esperienze. Come arriva l'equitazione e qual è l'esperienza, il rapporto col cavallo? Sì, allora la primissima esperienza che ho avuto, avevo più o meno 7-8 anni, noi abitavamo vicino a un maneggio, e papà mi portava a trovare i cavalli quotidianamente, io adoravo toccarli, adoravo dargli da mangiare, quindi avevo anche un po' paura all'inizio, perché bisogna dare da mangiare ai cavalli con la mano proprio aperta, io ero un po' spaventata da questa bocca gigante del cavallo, però con papà piano piano ho imparato a dargli da mangiare, e poi conoscendo anche il proprietario del maneggio, io volevo tanto prendere lezioni, perché anche all'elementare le mie compagne andavano via a cavallo, solo che i miei genitori non si fidavano tanto, ovviamente insomma la bambina che non vede, mandarla a lezione di equitazione, e adesso magari è tutto un po' più semplice, però appunto nel 98 era un po' più lontano. E mio papà ha preso accordi con il proprietario, chiedendogli proprio di portarmi lui stesso, mio papà, a cavallo nei prati. Quindi mio papà ha sellato il cavallo la prima volta, e lui correva nella prateria e io sul cavallo trottavo. Queste erano le mie prime lezioni, la mia prima esperienza, e mi piaceva un sacco, tantissimo, tant'è che abbiamo fatto così un anno o due, dopodiché volevo però prendere lezioni sul serio. Mio papà è morto di stanchezza. E mio papà giocava a calcio, quindi è allenato. E quindi ho iniziato ad andare a lezione in una scuola non lontana da casa, ma una scuola comunque un po' all'avanguardia, nel senso che la proprietaria è campionessa italiana di salto, quindi ci siamo sentiti un po' più in sicurezza a provare lì, e alle medie ho cominciato questo percorso, un percorso bello ma comunque difficoltoso, perché mi è rimasto questo ricordo di grande fatica, perché appunto ero cieca parziale, vedevo un po', ma anche lì cercavo di far capire agli altri che comunque vedevo, sì, non tanto quanto loro, ma che vedevo. In realtà purtroppo era comunque poco, però c'era sempre, infatti io dico sempre, adesso è un sacco più facile il fatto che io non veda, perché è più facile per me comunicare agli altri, gli altri capirlo, è tutto veramente più facile. Invece non sembra, ma il vedere un po' non sai mai come spiegarti, quanto spiegarti, gli altri non capivano il quanto vedessi, quindi si cercava di farmi fare o meno o troppo, ecco, spesso facevo troppo, e quindi a cavallo l'insegnante mi faceva fare tutto quello che facevano gli altri, solo che così io facevo il doppio della fatica degli altri, e anche a cavallo per saltare gli ostacoli per me era veramente duro e faticoso, perché ho fatto anche delle brutte cadute, perché se l'ostacolo non si prende proprio nella diagonale precisa si rischia di farsi male, quindi dopo aver fatto qualche caduta brutta, pur essendo piccola, mi sono resa conto effettivamente che andava bene, e mi sono anche presa paura dopo un paio di brutte cadute, e mi spiace tuttora che l'insegnante non avesse capito bene il fatto in cui io volevo, mi sono un po' tirata indietro, quindi volevo fare le cose un po' più con calma. Lei non ha capito bene questo, ha preso un po' il tutto come se fosse solo una mia paura di essere caduta, insomma. Sta di fatto che da lì ho iniziato con un approccio diverso, un approccio più verso la campagna piuttosto che nel campo con gli ostacoli, quindi ho iniziato con un'altra insegnante a fare passeggiate, galoppate in campagna. Quello mi appassiona tuttora, quindi piuttosto che le lezioni in campo, tra ostacoli, picchetti e quindi una serie di barriere, le galoppate in campagna le trovo sensazionali, perché si è più liberi, quindi sì, vengo sempre accompagnata da amici che mi sanno guidare bene. Infatti nel mio romanzo racconto di questa cavalcata col mio allenatore, dove mi indica di preciso se devo abbassare la testa perché c'è un ramo di un albero, oppure se possiamo galoppare in tranquillità in una prateria. Quindi avviene il tutto comunque in velocità, perché galoppo è galoppo, però si cerca di stare in zone anche lì tranquille, ecco. Sì, è sicuramente più appagante, insomma, questo. Sì, questo è più tipo tranquillo. Un cavallo, hai pensato di prenderti un cavallo tuo? No. In casa non avete spazio per un cavallo? No. Solo quello, Marco. No, no, allora da bambina lo volevo tanto, un cavallo mio, poi crescendo mi sono resa conto che è meglio se mi pago l'affitto piuttosto che il mantenimento del cavallo, quindi ho fatto questa scelta. Anche trovarti uno sponsor al limite, perché poi parleremo anche di questo, dei tuoi sponsor. Quindi, mi manca lo sponsor per il cavallo. La nostra Alessia fa tutto questo, fa anche il pattinaggio, poi magari ci racconterà della sua esperienza con la Via Costa, però come ha accennato lei, questo romanzo non è... cioè non parla solo dei suoi successi, ma anche dei piccoli infortuni, come le cadute in acqua, come le cadute da cavallo, o anche con la canoa a cui mi sono appuntato, che è stata un'esperienza un po'... Sì, ho provato con la canoa, più che altro un approccio durante un periodo estivo in vacanza, quindi nel mare. E allora, carino, però un po' monotono, sarà che anche lì non vedendomi attorno, solo il pagaiare non mi ha troppo entusiasmata, e mentre invece comunque nello sci nautico c'è un qualcosa da fare, quindi ho uno slalom oppure delle figure da eseguire. Nell'arrampicata io dico sempre che tutto vario, un po' come in gelateria, quando si scelgono i gelati, perché tutte le prese sono diverse, tutte le vie sono diverse. E all'andare in canoa, insomma, non mi ha entusiasmato troppo. E farai torrentismo, allora, canyoning. Esatto, forse è noioso la banale canoa. Sì, la banale canoa non tanto. Allora, continuiamo con un attimo lo sport e parliamo del progetto che in qualche maniera è gemellato, legato al tuo libro. Il progetto Se vuoi puoi, perché sembra una banalità, volere e potere si dice sempre, no? E Se vuoi puoi, se vogliamo, è mutuato da questa filosofia, da questa visione della vita. Qui leggo dal tuo sito, guardate il sito dell'Alessia, perché lì ci sono tante informazioni interessanti. Un progetto, Se vuoi poi, appunto, nato nel 2017, inizialmente per i bambini e i ragazzi e in seguito anche per gli adulti, per trasmettere il messaggio che nella vita tutto è possibile, se lo vuoi, fortemente. Come funziona? Come lo porti avanti questo progetto? Sì, appunto, l'ho creato io proprio perché questo è il mio motto di vita e ancora prima di averlo creato venivo chiamata, contattata dalle scuole, da eventi dei Lions, dell'Avis, dell'Euroblastoma di cui sono testimonial, insomma venivo chiamata per le conferenze e i congressi e a un certo punto mi sono detta, beh, ma diamo un titolo effettivo a tutto questo che faccio, a questo messaggio che diffondo. E ovviamente mi è venuto spontaneo intitolarlo proprio Se vuoi puoi, perché sono queste poi le parole secondo me che sono un po' la chiave di tutto, quindi gli obiettivi si raggiungono, però ci vuole dietro tanta determinazione e tanta forza di volontà. E quindi ho iniziato a dare questo titolo alle mie conferenze, e conferenze che affronto sempre in modo diverso in base all'età che hanno le persone, quindi se si tratta di adulti come in questa circostanza si parla, si proiettano video, poi si fanno magari domande, invece con i bambini è tutto diverso, quindi quando vado già solo con i bambini dell'asilo che sono alti così, ovviamente si gioca molto, io principalmente tolgo l'uso della vista, vedo i bambini e facciamo tutto insieme senza guardare, quindi indovinando magari i gusti delle caramelle, facendoli indovinare gli insegnanti che sembrano invece saper tutto, che sia tutto facile e poi me li sbagliano, oppure indovinando gli oggetti che peschiamo in un sacchetto, oppure scalzi seguendo una corda posizionata a terra per fare un percorso, o indovinare lo profumo delle spezie, il suono degli strumenti musicali, quindi cerco di sbizzarrirmi, poi ai bambini piace fare tutto, quello che è pazzesco, il loro entusiasmo, la curiosità, sono ben disposti a fare qualunque cosa. E soprattutto il tema della fiducia, che è un tema importante, con i bambini lo affronto tramite il gioco, proprio perché cerco di far capire che è importante accettare la fiducia, quindi la persona che mi accompagna quotidianamente, che sono sempre persone diverse, però camminando sotto braccio la persona che mi guida prende consapevolezza di accompagnarmi con serietà, dicendomi sempre la verità, cioè io scherzo molto, ma se c'è un gradino o meno su quello non si scherza, e allo stesso tempo io accetto questa fiducia, o meglio la cedo, quindi scatta quel qualcosa del quel lato passivo dove davvero a occhi chiusi si è disposti proprio a provare tutto. Con i bambini faccio in questo modo, un bimbo lo vendo, l'altro invece ci vede per mano, lo accompagna e fanno insieme dei percorsi a ostacoli, percorsi non so, salendo sopra un banco oppure passandovi sotto, facendo uno slalom tra i cinesini, quindi cerco davvero di farli sperimentare tutto ed è bello come prendano consapevolezza di questo ruolo tramite il gioco, perché ovviamente agli adulti si spiega il discorso di fiducia, ma con i bambini è diverso. Si deve sperimentare, esatto. Effettivamente. E in secondo luogo ovviamente il titolo del libro è, per me è stato spontaneo, a ottobre dell'anno scorso mi hanno proposto di scrivere un'autobiografia che io, come dicevamo, ho trasformato in un romanzo autobiografico proprio per lasciare spazio anche un po' alla mia fantasia a livello di shaker per quanto riguarda i tempi, a livello di attribuire più valore o meno ai personaggi che ho inserito nel romanzo, ho rivisionato un po' alcuni avvenimenti pur lasciandoli tutti reali, quindi dare il titolo però al libro è stato scontato, tra virgolette, per me, per gli editori, quindi Se vuoi puoi, Una vita al di là del buio, perché comunque si tratta poi di fatto di una vita di una persona che non vede, ma che appunto oltre al buio c'è tanto. E ecco, il titolo è il mio motto, quindi non potevo sceglierne un altro. Ecco, un libro che tu hai fatto in 6 mesi? In 6 mesi, da ottobre a Pasqua. E dicevi che l'hai fatto tutto tu, ma materialmente ti ha aiutato qualcuno a stendere il... Allora, il testo o l'ho fatto tutto io, sì. Avevo in mente una scaletta, quindi ho pensato un po' ai punti da toccare, a una sequenza, perché appunto il libro inizia con la partenza per la Spagna per questo campionato mondiale e c'è un durante di sfide personali, sfide sportive, lati più forti, più gioiosi, lati anche più tristi, più difficili, perché volevo far vedere il bello e il brutto, sino arrivare poi a una sfida nella natura, quindi una scalata di 300 metri che ho voluto posizionare più verso il fondo del libro. Quindi io avevo questa idea che ho messo su carta, come dicevo a te prima, 6 ore dopo il lavoro, mi sono messa a scrivere 12 ore il sabato e 12 la domenica, però in questo modo in 6 mesi ho concluso il mio romanzo, perché volevo concluderlo appunto e pubblicarlo per Pasqua. Alcune persone volevano regalarlo al posto dell'uovo. E quindi l'ho fatto tutto da sola. La mia famiglia mi ha dato dei consigli quando lo scrivevo, ho fatto leggere le varie parti di bozze. Gli editori anche mi hanno dato poi dopo altri consigli. Soprattutto gli editori mi hanno sistemato la punteggiatura, un po' l'estetica, perché comunque non vedendo una persona scrive utilizzando un computer dotato di sintetizzatore vocale, quindi come anche lavoro in banca utilizzo il computer, però con questo metodo di lettore di schermo. Di conseguenza non ho ovviamente la parte visiva dell'estetica del libro, quindi io lo potrei scrivere anche grande un millimetro, ma poi gli altri non lo vedrebbero, quindi c'è proprio questo discorso anche di andate a capo magari fluide da vedere visivamente, quindi mi hanno aiutato soprattutto in questo. E poi finalmente è stato pubblicato a Pasqua, perché l'obiettivo era quello di presentarlo, sì, in tanti posti, però il primo era il Salone del Libro. Io volevo tanto Torino, presentarlo, sì, al Salone a Torino, e quindi ecco, questo è stato l'evento per me più grande, più spaziale, e il primo comunque. Allora, premesso che man mano che Alessia parla, immagino che a molti di voi, come è successo a me leggendo il libro, verranno spontanee delle domande, quindi mi auguro e vi invito a porre tutte le domande che vorrete. Adesso abbandoniamo un attimo l'aspetto sportivo appunto di Alessia, invece alcune riflessioni spontanee che sono venute a me da lettore leggendo il libro di Alessia, che non riguardano tanto lei come persona ma come non vedente, quindi le classiche curiosità che sorgono quando si legge la storia di una persona non vedente. Nel tuo libro racconti diversi aneddoti legati alla reazione della gente, quando si accorge o magari non si accorge che tu sei appunto non vedi. Questo, qual è la cosa che più ti colpisce ancora oggi o che ti ha stupito nei rapporti con la gente? Allora, ci sono sfumature molto diverse, reazioni molto diverse dalle persone, soprattutto perché quando si vede per la prima volta una persona che non vede, capisco anche, perché anche io quando non conosco una certa disabilità non la conosci, quindi puoi pensare di tutto, giudichi, perché purtroppo è quello, nella nostra testa compare un giudizio, giudizi che a volte vengono anche sussurrati, cosa brutta, dico piuttosto stai zitto, invece a volte senti sussurrare, ah poverina, ah chissà che vita triste, ah però sei bella, alcuni mi dicono, ah. Cioè non ti ho chiesto niente, né di dire quello che pensi né niente, eppure alcuni fanno questi commenti di ogni genere, quindi c'è la persona che invece mostra un entusiasmo spropositato magari nell'aiutarmi, a volte entusiasmi sinceri che sono belli, quindi ci sono persone veramente ben disposte a darmi una mano anche solo per strada, come mi vedono col bastone bianco, persone che invece hanno timore anche solo di salutarmi, persone che mi conoscono e che magari tramite altri mi dicono, ah vedi tua figlia, mi dice mia mamma, avrei voluto salutarla, però non l'ho salutata in palestra perché non sapevo per esempio come presentarmi. Tante persone, insomma, alcuni sono più coraggiosi, altri meno, ognuno reagisce a suo modo. Quindi è veramente tanto vario. Per esempio nel libro ho raccontato questo aneddoto che mi ha fatto ridere nel bar, quindi eravamo in questo bar, un bar pasticceria, dove anche lì con mia sorella abbiamo poi riso veramente tanto, perché al barista ho chiesto un certo croissant se ce lo avesse, e lui mi ha direttamente risposto, ma sì, guarda, è tutto esposto lì davanti a te. E io ho detto, sì, vabbè, ma io sono non vedente, quindi se vuoi dirmi cosa c'è, mi è spiegato, è rimasto scioccato. Ah, no, tutto sequioso, non volevo. No, guarda, c'è tutto quello che vuoi, sì, questo. Poi addirittura quando l'ha messo sul piattino, mia sorella mi fa, sì, ma ti ha scelto anche il croissant più piccolo, no? E io allora gli ho chiesto, guarda che me l'ha scelto più, non è che può darmi l'altro. Ah sì, tutto quello che vuoi, me lo voglio cambiare. Quindi cioè, si passa veramente da un posto all'altro. Poi quando sono uscita dal bar mi ha salutato anche tre volte, pur essendo il bar pieno di gente. Quindi c'è qualcuno che insomma subito magari se ne frega, e poi quando vedono che c'è questa problematica alcuni restano freddi, indifferenti e restano sull'idea del poverina, lasciamola stare, invece altri insomma c'è di tutto. Sì, diciamo che il tuo approccio facilita molto perché appunto l'imbarazzo nasce spontaneo, come si direbbe. Allora mi permetto, visto che tu addirittura hai detto prima degli aspetti positivi della cecità, leggendo il libro e pensando a come siamo condizionati oggi da alcuni dispositivi tecnologici, penso beata lei, come ti disse qualcuno, che lei magari non vedendo, quindi non ha WhatsApp, non ha internet, non ha Facebook, non ha Instagram, ma che spiegaci come funziona. Ho letto di voice over, che tu mandi le icone, ecco come. Allora sì, ci sono questi lettori di schermo, come dicevo prima, sul computer, così come questo lettore c'è anche sull'iPhone, quindi sui prodotti. Tutti i prodotti tecnologici ormai hanno queste facilitazioni, per fortuna per i non vedenti, strumenti che sono già installati, basta attivarli, loro iniziano a parlare, quindi non vi sbagliate ad attivarli nelle impostazioni perché poi non sapete più come muovervi, perché noi facciamo dei gesti diversi con le dita, proprio perché voi con un dito fate agire il telefono e la funzione si fa immediatamente, invece noi con un solo dito toccando lo schermo soltanto legge. Quindi poi con un altro dito e con altri gesti facciamo fare al telefono quello che vogliamo fare, quindi abbiamo dei gesti diversi e riusciamo così a fare tutto, sì, un po' più lentamente in certi casi, però riusciamo a utilizzare qualunque app. Certo, ci sono app comunque ancora un po' meno accessibili, per esempio Instagram me lo gestisce mia sorella, perché è tanto visivo, ovviamente lì sono solo foto. Però ci sono strumenti invece come Facebook che sono anche proprio più descrittivi, WhatsApp è come fossero SMS, quindi alla fine è tutto. Ma tu digiti il messaggio? No, allora posso usare il messaggio vocale come voi, posso usare il tastino detta per dettarlo e lui me lo scrive, e posso scrivere dalla tastiera come voi, perché mi viene letta A, B, C, cioè mi viene letto tutto. Quindi qualunque cosa io tocchi sullo schermo mi viene letto. E quindi per fortuna riusciamo a fare un po' tutto. Curiosità, nel libro io a un certo punto lo scrivi una o due volte, non credo, non mi ricordo, sul telefono compare la scritta numero sconosciuto. Sì, allora spesso mi capita, spesso, perché il mio numero ormai gira tanto, non so come mai, però non me lo chiedo neanche più di tanto, nel senso che quando mi chiamano per le interviste o sulla radio, in TV o sui giornali, il mio numero ce l'hanno tutti, quindi forse lo chiedono alle federazioni sportive, lo chiedono al Comitato Italiano Paralimpico, insomma il mio numero gira, infatti mi vedo sempre questi numeri sconosciuti, questi 338, 339, che boh, non so, e rispondo senza farmi domande, anche perché appunto ti chiama, come in questo caso che avete visto prima, Sport Mediaset, cioè non è che la prima domanda che faccio è chiedere ma come mai il mio numero, non importa, sono contenta di fare con l'intervista, piuttosto che, anche se come diceva prima, sono poi molto stancanti, perché il mondo della TV può avere un fascino visto dal divano, ma poi quando lo vivi è un po' più faticoso, però sì, ecco, i numeri sconosciuti ci sono. Abbiamo il capo dell'immagine, che sembra un controsenso per quando parliamo di non vedenti. Abbiamo già visto nel video, lei l'ha accennato anche tu, che invece tieni molto al tuo look, alla tua immagine proprio, l'abbigliamento e il trucco. Addirittura leggo nel libro che sei diventata consigliera di bellezza per una celebre azienda francese di cosmetici. Sì, allora, l'estetica secondo me è importante perché è sempre la prima carta che ci giochiamo verso il mondo, quindi è importante secondo me dare un buon impatto, sia a livello di abbigliamento, sia a livello di solarità, di sorriso, secondo me è sempre importante trasmettere quel tipo di energia positiva, e questo sì, mi ha poi portato ad avvicinarmi anche a questo mondo estetico, perché mi piacciono anche i rapporti con le altre persone, quindi l'essere diventata consigliera di bellezza per l'azienda Igrochet mi rende contenta tuttora, quindi posso sia consigliare soprattutto donne ma anche uomini per quanto riguarda la scelta dello shampoo piuttosto che del rossetto, quindi ci sono prodotti di vario genere in questa azienda, sia proprio il rapporto di colloquio, di contatto con le persone, sia telefonico, sia soprattutto personale, perché capita così di vedere le mie clienti per un caffè, piuttosto che per un tè, per fare una passeggiata, perché così raccolgo l'ordine, oppure così consegno i prodotti, o così consiglio semplicemente. Quindi mi ha portata questa voglia di affrontare comunque un mondo estetico senza gli occhi, mi ha portata ad avere questo secondo lavoro che mi entusiasma. Bene, io direi allora facciamo, sì, anche così facciamo anche bere un po' d'acqua ad Alessia, la facciamo riposare un po', vediamo il secondo, sì, filmato. Senza per niente, secondo me. Agli ordini. Se ti piace l'idea. Paolo si arrabbia. Non dico più nulla. Noi pattinatori siamo in parte atleti ma anche artisti, il fatto proprio di godersi il momento, di vivere proprio nel presente e di comunicare se stessi come in un'opera d'arte. Oggi incontrare Carolina Costner per me è veramente pazzesco. Sarà una prima volta speciale per tutti e due. Eccoci. Vieni. Alessia è una fonte di ispirazione perché non ha mai detto mi fermo qua o mi accontento. Il fatto di accettare di superare i propri limiti è una forte definizione di campionessa. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao Alessia. Piacere. Piacere mio, come stai? Bene. Sono un po' emozionata, e tu? Anch'io. Ciao. Finalmente. Ciao. Oggi ti presento un po' qual è il mio mondo e spero che ti innamorerai come l'ho fatto io quando... Oh, bene, trasmettimi un po' di questa passione. Sì, sì, sì. La mia disciplina è pienamente prima espressione di te stessa. Mm-hmm. Quindi diciamo sì, è bello saper fare il salto, mm-hmm, è bello saper fare l'acrobazia, però devi venire dal cuore. Sei pronta? Pronta. Allora seguimi che ci andiamo a cambiare. Ok. Mettiamo i fatti. Sin da quando sono bambina ho sempre ammirato Carolina, però non avrei mai pensato di entrare un giorno con lei mano nella mano in pista. Pago. Ok, aspetta un attimo. E questo mi rende proprio, proprio felice. Prova un po', metti i piedi uno vicino all'altro, sì, tieni le mie spalle. Posso? Sì. Sei pronta? Sì. Questo piede lo mettiamo a T. Questo praticamente è un po' la posizione della prima spinta. Ok, allora quindi lascio qua e vado in qua. Sì, sì, monca. Che monca. Vai. Carolina. Vai, passettini. Dopo un po', senza più fare i passettini. E lasci scivolare il giro di inerzia. Non ci vuole niente. Faccio cenare. Alessia, sta proprio contenta, trasportata. Incrocia il destro sopra il sinistro. Ok. Ho visto anche Carolina, una ragazza di cuore, spiegava ad Alessia con affetto, proprio un'amicizia. E se io invece adesso pattino vicino a te, chiacchierando con te, okay, ma lasciando la mano. Sì, è solo che quando facciamo... devo proprio girare mi dici... No, ti guido. Ok. Ok, pronta? Sì. Dai, Ale. Possiamo imparare da tutti e Alessia è un bellissimo esempio, affronta gli ostacoli con coraggio, con determinazione, ma anche col sorriso, con leggerezza e autoironica. Sta andando alla grande. Mi sarebbe piaciuto da sempre poter usare giorno a pattinare con Carolina, ci ho creduto e ce l'ho fatta, non ci credo ancora, ma ce l'ho fatta. Spero di mantenere poi nella memoria questi attimi con lei, in tutti i sensi, sia a livello umano sia sportivo. Siamo in parte atleti ma anche artisti, il fatto proprio di godersi il momento, di vivere proprio nel presente e di comunicare se stessi come in un'opera d'arte. Sono andata ogni tanto in passato con gli amici o con i miei genitori, però proprio solo il giro della pista, infatti ho proprio espresso alla trasmissione il desiderio di prendere una vera e propria lezione con una persona che mi insegnasse davvero almeno un po' le basi, e loro mi hanno proposto di pattinare con Carolina e quindi ho accettato, era a febbraio, quindi ho accettato pur sapendo che era un momento particolare per me perché stavo scrivendo il libro e ero impegnata a pinzo per i capelli, non riuscivo neanche ad andare in palestra, però ho pensato, il primo pensiero è stato quello, ok, pattino con Carolina, almeno posso scrivere questa cosa nel libro. Quindi ho accettato e infatti ho bloccato un attimo la mia scrittura, ho inserito questo capitolo nel libro perché ci tenevo tantissimo e poi il libro è andato in stampa. Ma tu hai fatto l'unica lezione con Carolina Costa, da quella lì? Quella. Quel paio d'ore, cosa che hai fatto? Una. Secondo me è un talento questo qui, scusate. Sì, no, ma ci sono la pista lo facevo, poi non è che infatti avete visto, mi sono diventata chissà cosa. Però mi ha fatto pattinare da sola, diciamo anche. La cosa più spontanea di questo mondo. Vabbè, insomma, non finisce mai di stupirci. Allora, nel libro scoprirete che lei, a parte Carolina Costner, a parte la prima volta, ma anche la vita in diretta, ecco, è un personaggio che sta anche acquisendo una notorietà ovviamente fuori dai propri confini, sia geografici sia di ambito. E Un sogno nel cassetto, ne abbiamo parlato poco fa, sarebbe un film. Sì, questa è un po' l'idea che ho da quando è uscito il mio romanzo, quindi l'idea è un po' di poter un giorno trasformare il mio libro in un film, ma non per forza recitando io, come dicevamo, proprio mi piacerebbe l'idea che questo possa diventare un giorno un film, comunque si tratta di una storia vera e mi piacerebbe riuscire a trasmetterla anche sullo schermo. Chissà se qualcuno raccoglierà questo stimolo. Adesso raffica di domande finali prima di lasciare la parola al nostro pubblico. Questa è personalissima perché l'ho letto nel libro. Parla a un certo punto, sei in Marocco, sì. E parla di un ristorante all'aperto più grande del mondo. Allora, il nome arabo non me lo ricordo sinceramente, però è stato pazzesco. Quel ristorante lì, ma anche proprio l'esperienza in Marocco in generale. È un'esperienza che ho vissuto con mio papà 2 anni fa e con questa associazione che proprio ha, diciamo, il dono di riuscire a far concentrare le persone che fanno viaggi con loro, concentrandosi proprio su tutti gli altri sensi. Infatti si attivano anche per le persone che vedono, si attivano tanto in Marocco tutti gli altri sensi perché ci sono questi profumi pazzeschi a livello di spezie, questi gusti molto orientali anche nella cucina. Ci sono queste sensazioni, io sono stata proprio a Marrakech, quindi sensazioni di una arretratezza pazzesca perché sembra di vivere davvero negli anni 50, però lì sono davvero così tuttora, ma penso anche proprio per scelta, proprio per far vivere queste sensazioni. Ci sono nel souk ci sono queste botteghe di artigiani, proprio persone che intagliano il legno, intrecciano le corde per fare dai tappeti ai cesti e le scarpe, quindi siamo rimasti davvero tanti indietro ed è bello notare questa differenza, un po' meno bello notare per esempio poi, ecco, in questo ristorante ho mangiato la carne come anche in altri posti, non devi solo pensare dove hai visto appesa di giorno la carne, perché tu cammini e vedi appese queste mucche che sgocciolano lì, per strada, all'aria aperta, il pane, che lo possono toccare tutti perché lì è all'aperto, quindi non hanno norme di sicurezza, di igiene, insomma. Quindi è stato bello il vivere il Marocco in questo modo, soprattutto guidati da persone che mi hanno, ci hanno permesso, noi non vedenti, perché eravamo in 5 non vedenti, ci hanno permesso di farci anche proprio toccare tutto, quindi avevamo queste guide che erano brave anche nel descrivere i mosaici all'interno di alcuni palazzi che abbiamo visitato, ci hanno fatto proprio toccare tutto, hanno preso contatti con per esempio i ciabattini, ci hanno fatto toccare tutte le scarpe delle botteghe, quindi è stato bello vivere il Marocco davvero a 360 gradi. Poi per la prima volta ho preso in braccio anche un capretto, che non so, se ne vedono spesso da noi anche in Valle d'Aosta, in montagna, però di fatto sì, magari da piccola ne ho toccati gli animaletti così di plastica, però proprio l'averne preso uno in braccio per me era la prima volta, no? Quindi è bello perché andando a Essaouira, vicino al Marocco, c'è questa città di mare, ma sulla strada c'era un albero che fanno vedere anche spesso in TV, mi hanno detto, un albero pazzesco, gigante, tutto anche in orizzontale, questi rami che si aprono in modo particolare, e per guadagnarci anche qualcosa gli allevatori mettono questi capretti seduti su tutti questi rami che vanno su, quindi i capretti che devono stare lì poverini poi tutto il giorno, però è super scenografico, poi prendevano questi capretti e ce li facevano toccare, ce li facevano tenere in braccio, sì. Quindi emozioni un po' diverse ho vissuto. Curiosità, tu ne parli anche nel tuo libro, te lo chiedono spesso, come i sogni di un non vedente? Ah, come il sogno di notte? Allora, sì, alcuni me lo chiedono, ma non capisco perché ci sia questa curiosità, però me lo chiedono, anche solo l'altra settimana ho fatto un'intervista per un liceo, un'intervista che poi i ragazzi hanno tradotto in spagnolo, e subito la prima domanda è come sogni di notte, ma non riesco a capire perché sono quelle cose così automatiche, non so, è un po' come vivo di giorno, cioè nel senso sì, non vedo, ma comunque tutte le sensazioni sono uguali. Effettivamente, se devo proprio pensare, sogno come quando ero cieca parziale, nel senso che un po' lo vedo. Ogni tanto ci penso, perché comunque quando ero cieca parziale vedevo un po' le sagome, un po', non so, notavo se una persona aveva i capelli legati o meno, se una ragazza aveva la gonna o un pantalone, per esempio, un po' queste cose. Per esempio mi viene in mente che l'altra notte ho sognato che dovevo scegliere tra una serie di smalti, quindi uno smalto da farmi mettere sulle unghie, e i colori li vedevo, perché effettivamente una volta i botticini degli smalti li vedevo. E mi è rimasto questo flash che nel sogno ho scelto quel tipo di rosa piuttosto che l'azzurro, e da lì poi mi sono svegliata e ho detto adesso non li vedo sti botticini. Comunque quelli che allora penso che nei sogni effettivamente allora sono rimasta come ero cieca parziale, però non ci pensi, sono quelle cose un po' come, cioè, quei ricordi dei sogni, no? Che si hanno, momenti vissuti, ma che sono più poi sensazioni che uno ricorda più che il vedo o non vedo. Nel libro, Alessia, a un certo punto parli, riveli che soffri il mal d'alto e vuoi sempre stare davanti. Sì. Come le persone che ci vedono fondamentalmente, sì, vogliono stare davanti. Per magari un... accentuato, ecco. Per chi non vede, però più o meno. E anche in una scalata a un certo punto ti giri verso il basso, già tu non vedevi, e soffri di vertigine. Sì, allora la sensazione del vuoto comunque c'è, anche lì è attenuata, nel senso che a me fa meno effetto. Per esempio, 2 mesi fa sono andata, mi hanno fatto provare parapendio durante una presentazione del libro, mi hanno proposto anche di... Questo ci mancava. Mancava. Il libro non c'era. No, non l'avevo ancora visto. Mi hanno proposto di provare parapendio perché questa associazione che mi ha fatto presentare il libro ha questa scuola proprio di parapendio, allora mi hanno detto presenti il libro però poi ci descrivi anche le sensazioni, allora mi hanno regalato questa lezione, e anche lì il discorso di altezza come nell'arrampicata, se non vedi a tutti, nel senso senso che hai la consapevolezza e in un certo senso basta non pensarci. Invece per voi che vedete siete sfortunati perché ve lo vedete pure. E quindi... soffriamo. Però ma che ci sono a volte le cose positive di non vedere, perché per esempio mi viene in mente in estate, no? Quando sono in spiaggia c'è un sacco casino, per esempio ad Alassio, e siamo tutti mi dicono ma hai praticamente i piedi in bocca del vicino. A me no, perché io ho il mio spazio, nessuno mi tocca, io mi sento libera da sola, mi sembra di avere proprio la spiaggia, non dico deserta, però ecco, invece no, è un po' un disagio per chi ci vede perché si sente affollato. Oppure un altro esempio mi viene in mente quando vado a fare la spesa, no? Che io ho mentalmente le cose salutari che voglio comprare, vado con mia sorella, no, lei vede le brioche, e lei le vuole perché le vede, no? E io che non le vedo non sono attirata da tutto quel cioccolato. Quindi anche sui pro, insomma. Vita privata, se volevo vita privata. Nel libro racconti che invece di essere la classica centralinista, che è il tipico lavoro che fanno i non vedenti, tu invece hai scelto di lavorare in banca e dici cosa fai esattamente a questo punto. Sì, allora io volevo un lavoro che intanto volevo lavorare, quindi l'università non l'ho fatta, e volevo un lavoro possibilmente che non fosse proprio quello del classico centralinista o fisioterapista. E quindi ho provato a fare questo bando di concorso per essere assunta alla Banca Montepaschi, visto che mi sono diplomata ragioniera, volevo restare in quell'ambito. E così ho fatto questo bando di concorso con un po' di fatica, nel senso che sapevo che avrebbero assunto solo 7 disabili per ogni regione, ma i disabili sono tantissimi di varie problematiche, nel senso che c'è il disabile che non ha un rene, quindi è facilitato, il disabile invece che ha problemi anche mentali, quindi è veramente più difficile che venga assunto. Ci sono vari disabili. E nel Piemonte, quando ho fatto io questo colloquio, eravamo in 90, quindi ne assumevano 7, ero veramente preoccupata, però mi sono preparata bene e poi dopo un po' di mesi mi hanno comunicato che ero rientrata in questi 7. E quindi insomma si è realizzato un po' questo sogno, questo desiderio. Adesso lavoro in banca da 5 anni e questo mi ha permesso poi di realizzare altri sogni. Intanto è andare a vivere da sola, che è venuto subito dopo. A tempo pieno lavori? Sì, allora a tempo pieno chi ha una disabilità importante, per esempio come la mia, può usufruire della 104, quindi può lavorare 2 ore in meno ogni giorno. Quindi io invece che lavorare 7 ore e mezza come i colleghi lavoro 5 ore e mezza. E quindi poi il tempo per fare tutte quelle cose che abbiamo, sì, che abbiamo visto. Sì, la svizzera di cose che voglio fare. Allora, domanda che ti fanno i bambini spesso, leggono il libro: ma se gli occhi non funzionano, allora non puoi neanche piangere. Magari, dico loro. No, invece sì, i bambini hanno questi pensieri, poi mi fanno di quelle domande dirette pazzesche, quindi questa è una di tante, però sì, loro ovviamente hanno proprio le loro teorie. Per esempio è venuto l'altro giorno in filiale il bambino della mia collega che ha 5 anni e poi la sera la mamma gli ha detto: guarda che Alessia ti ha voluto toccare la testa perché per capire quanto fossi alto, perché non ti vedeva. E lui ha detto: ma sì che mi ha visto, solo non mi guardava in faccia, ma ben visto. si muoveva anche la testa, gli occhi li muoveva. Oppure un altro bambino un po' di tempo fa, anche non mi ha raccontato poi la mamma gli ha detto: guarda che Alessia ha questo problema qua, e il bambino gli ha detto: ma no, guarda che non hai capito, mangiava anche le patatine. Hanno proprio i loro pensieri. Logica stringente. Sì. Nel libro racconto della cena al buio, non so quanti di voi l'hanno mai provato. Io l'ho provato una volta anni fa e devo dire che è un'esperienza molto molto forte. E sono andato al centro ciechi che c'è qui a Gries, a Bolzano, ed è stata un'esperienza molto forte che non è inutile descrivere perché bisogna viverla, perché si è veramente al buio. E la cosa più, come dire, il ricordo più forte di questa esperienza, che Alessia descrive nel libro perché lei ha servito durante una cena al buio, e il fatto che quando esci da là dentro e vedi in faccia le persone con cui hai parlato tutta la sera, perché i tuoi vicini ne hai 2 di fronte e almeno 2 ai lati, te li immagini per forza di cose, perché li senti e ci parli tutta la serata e ti fai un'immagine di queste persone. Sì, poi simpatico le vedi fuori, vuol dire bello, antipatico vuol dire... No, ma proprio fisicamente. Non è proprio così anche, vero? Fisicamente, tu immagini, sarà giovane, sarà anziano, avrà i capelli e non capelli, poi quando ci siamo visti fuori eravamo tutti scioccati perché erano completamente diversi da come ci eravamo immaginati. Quindi l'esperienza comunque da fare sia per capire cosa vuol dire, ma anche per capire quanto la vista ci possa in effetti in alcuni casi influenzare, non dico positivamente o negativamente, ma comunque influenzare nel giudizio. Durante i mondiali spagnoli, Alessia, tu racconti appunto di aver conosciuto altri atleti che hanno altre disabilità. Sì. Chi di questi ti ha colpito di più per la capacità di reazione al tipo di disabilità che aveva? Allora, sì, disabilità di ogni tipo, quindi amputazioni ad arti superiori, inferiori, paralisi, quindi ho conosciuto davvero di tutto. Mi ha colpito tanto Lorenzo Mayor, infatti ne ho parlato tanto nel mio libro, era un po' il mio riferimento, sulla sedia a rotelle, quindi paralizzato dallo stomaco in giù dopo un incidente che ha avuto in moto, e quindi utilizzava di fatto solo le braccia, quindi arrampicava tutto di braccia, e mi ha colpito perché è rimasto veramente positivo, grintoso e sempre solare, così come anche altre persone, quindi una ragazza che ha parte della mano amputata anche, beh, con lei andare in giro era veramente semplice, perché nel senso, quando hai amputazioni nelle parti superiori sei quasi normale. Ho anche un'altra amica che è amputata da sotto il gomito in giù, quindi non c'è nessun problema. Anche andare in giro per esempio con Lorenzo non c'è, perché mi appoggio dietro alla carrozzina, io cammino e lui ci vede, quindi è a posto. Magari se l'altra persona ha le stampelle, ecco, è un po' più difficoltoso, però piano piano ci si muove, infatti stavamo comunque tutti insieme, ci davamo consigli soprattutto sulla scalata, quindi persone che magari non hanno le gambe ma che comunque ti consigliano come meglio usarle in quel movimento. Ma questo invece... è il tuo sport, invece di altri, sì, di altri sport che hai conosciuto disabili che praticano altri, allora, sport? Allora, beh, di sci nautico, perché l'altro sport che ho praticato io, più o meno stesse dinamiche, perché anche lì c'erano persone sedute, persone in piedi, persone amputate, eccetera. Sono entrata in contatto invece con Alex Zanardi, ma solo per telefono, e quindi ho sentito molto parlare, come voi, della sua storia, delle sue vittorie, però è rimasto un contatto telefonico, nel senso che vabbè, dovrei poi incontrarlo tra 3 settimane per un convegno, però finora è solo teorico. Questa è la sorpresa allora, perché infatti questa è una domanda che ti volevo fare, perché citi alla fine questo incontro con Zanardi, sì, che è uno dei nostri, almeno il mio, ma penso di tanti miti di questo veramente persona straordinaria. Quindi volevo sapere come dopo il libro cos'era successo con Zanardi. No, di fatto lui mi ha lanciato questa proposta, che io appunto ho scelto di porla verso la fine del libro per lasciare un po' questa apertura. Di fatto mi piacerebbe un giorno provare ad andare in bici come mi ha consigliato lui, i non vedenti vanno su questo tandem, quindi davanti c'è la persona che vede, dietro quella che non vede. Però di fatto non ho ancora avuto occasione di provare, poi io resto sempre molto aperta alle proposte, alle iniziative, quindi sono sempre reattiva quando mi propongono e mi si presenta davanti una certa possibilità. Si vede che questa poi nel concreto non mi si è ancora presentata, nel senso, a livello così teorico mi è stata lanciata l'idea, però di fatto poi ne ho ricevute tante altre di proposte, quindi per ora ho provato altro. Un'ultima domanda, io ho scoperto che esiste quest'altro personaggio, Tapia, sì, ne ho sentito parlare però non lo conosco. Lui era, mi sono informato, non lo sapevo, è diventato famoso qui in Italia perché ha vinto, sì, credo, ballando con le stelle, lui è un non vedente, e lui ha un destino veramente curioso. Lui era un forte, di origine cubana, adesso è italiano, e lui era un giocatore di baseball che venne a giocare a Parma, insomma, negli anni ancora inizio 2000 credo, e però siccome non lo sport non gli dava da vivere, lavorava come giardiniere, e un giorno gli cadde un ramo in testa e perse la vista totalmente quel giorno lì, e poi è diventato per l'Italia campione paralimpico di lancio del peso e del disco, credo, sì, queste due specialità, ecco. L'hai conosciuto? Lo conosci? No, ne ho sentito parlare, però no. Non so niente più di te. Ecco, lui è un altro dei personaggi che vorresti, con il quale vorresti sì, sicuramente sì, perché maniera. Sono quei personaggi appunto che a me affascinano perché hanno un problema, ma l'hanno trasformato poi in un punto di forza piuttosto che lasciarlo, ecco, magari come un limite, quindi sicuramente sì. Quindi lui è un altro che ha declinato il motto se vuoi poi, sicuramente. Sì. Bene, io per quanto mi riguarda avrei concluso, e a questo punto lascerei la parola a voi, perché qui c'è Alessia che lei vuole dire. Se avete capito, domande sono non ha problemi a rispondere a qualsiasi domanda ed è ben... Non c'è una domanda. Sì. Tu hai detto che hai fatto delle 300 metri di arrampicata. Sì. Vero? Sì. Com'è la progressione in questo caso? Nel senso come... Tu sei secondo immagino. Sì, allora in generale i disabili scalano tutti per secondi, poi in qualche allenamento ho provato anche a scalare da prima, però tanto le gare sono tutte da secondi con la corda già su, quindi anche questa via lunga di 300 metri l'ho affrontata così e abbiamo scelto un grado medio, nel senso per non avere una difficoltà eccessiva, perché il mio obiettivo primario era comunque arrivare in cima, quindi... ho proprio messo in chiaro da subito, non sceglietemi un grado difficilissimo come può essere quello di una gara, perché ci tengo a fare tutti i 9 tiri di questa via, praticamente le vie lunghe sono suddivise in parti da 20 o 30 metri che si chiamano tiri, e quindi questo ne aveva 9, l'ho fatto in Valle d'Aosta sul barretone di Mashavi e questa è proprio stata la mia scalata all'aperto preferita, perché era davvero lunga e impegnativa, quindi magari si fanno alcune scalate nell'arco di una giornata, però una così lunga insomma va un attimo preparata e infatti adesso l'obiettivo, alcuni mi chiedono adesso qual è il prossimo obiettivo, intanto ho appena stampato il libro, fatemi respirare, però il prossimo obiettivo è quello di fare un'altra scalata nuova, una scalata sulle cascate di ghiaccio questo inverno. Quindi ora mi sto preparando su quello e poi ne voglio fare un'altra lunga, così sempre sui 300 metri, però picco sul mare perché mi piace tanto il mare, starà in caldo visto che già lì sul ghiaccio starò al freddo. Le cascate di ghiaccio qui siamo pieni, cioè in Baltasiria credo c'è proprio una palestra d'inverno che viene una torre di ghiaccio dove ci fanno Val Martello, dove fanno anche delle manifestazioni. Baltasiria, esatto, campionati. Che fanno i campionati anche internazionali, insomma, di arrampicata sul ghiaccio. Sì. Prendi nota. Ecco, prendi nota. Quindi puoi tornare. Beh, d'altronde con Carolina Costa sei già entrata in contatto con l'Alto Adige, perché è una nostra atleta. Adesso chissà, vedremo. No? Qualche altra domanda, curiosità? Sì, la guida che ti aiuta a scalare. Sì. Che sta a terra. No, mi sembra di aver letto il libro, tu hai degli auricolari, sì, nelle gare soprattutto, sì. Che rapporto deve avere con te questa persona? Allora, diciamo che c'è un rapporto di fiducia, perché comunque, soprattutto quando si affronta una gara, io devo essere consapevole che la persona che mi guida sia all'altezza, abbia esperienza, insomma, come si dice, si gareggia per vincere, quindi... lì è importante non fare una gara con chiunque, perché lì si è una squadra, quindi entrambi proprio 50% devono darlo tutto e lì ci vuole proprio feeling, ci vuole un rapporto di complicità pazzesco. In gara, al di fuori della gara, a me piace comunque essere elastica, nel senso sperimentare, provare comunque a dare possibilità un po' a chiunque di guidarmi, tant'è che come ho scritto nel libro ci sono stati un paio di atleti normo che hanno voluto provare a guidarmi, così come anche in altre circostanze ci sono persone che vogliono provare e sono ben contenta di lasciarlo fare, ci facciamo anche qualche risata perché poi tanti si danno consigli mentre scalano, però ovviamente sono tutti che ci vedono. Quindi magari ti dicono, no, prendi la presa blu, è vicino alla sinistra, è vicino a quella destra, è vicino alla rossa. La blu. Sì, oppure ti indicano quelle, ma no, quella più a destra, quella piccola. Quindi a me fa anche piacere far provare a tutti, sia il guidarmi, sia l'arrampicare senza vedere. Quindi ogni tanto consiglio proprio a chi è con me di scalare da bendato per capire bene le sensazioni, e infatti questo piace comunque perché capiscono che ci si concentra su altro, che si affronta l'arrampicata in modo diverso, quindi sono poi lenti come delle lumache, come dico io, però piano piano in alto ci arrivano. Allora, facciamo un applauso ad Alessia. Grazie di tutto, e rimanete qui e andate per la... Sì, un'ultima cosa, se prego. Per caso volete seguirmi, come diceva Paolo, c'è il mio sito alessiarepolo.com e poi ci sono sui social, quindi da Instagram a Facebook, cerco di essere attiva. E niente, per quanto riguarda i libri ne ho portate alcune copie solo perché negli eventi come questo aggiungo la dedica e la firma tramite un timbro, perché come faccio spesso chiedo gli occhi in prestito e mia sorella mi ha fatto questo timbro che volevo tanto, e altrimenti niente, il libro si può trovare dappertutto. Grazie, grazie. Grazie a voi.